Capitolo 43. I figli di Elleno. Elleno, figlio di Deucalione, sposò Orside e si stabilì in Tessaglia, dove il suo figliolo maggiore, Eolo, gli succedette. Il più giovane dei figli di Elleno, Doro, emigrò sul monte Parnaso, dove fondò la prima comunità di Dori. Il secondo figlio, Suto, si era già rifugiato ad Atene perché accusato di furto dai suoi fratelli, e colà sposò Creusa, figlia di Eretteo, che a lui generò Ione e Acheo. E così i più famosi popoli ellenici, e cioè gli Ioni, gli Eoli, gli Achei e i Dori, discendono tutti da Elleno. Ma Suto non ebbe fortuna ad Atene. Quando fu proclamato arbitro della successione al trono dopo la morte di Eretteo, egli dichiarò che il suo cognato più anziano, Cecrope II, era illegittimo erede. La decisione non fu approvata dal popolo e Suto, condannato all'esilio, morì a Egialo, ora Acaia. Eolo sedusse la figlia di Chirone, la profetessa Tea, da taluni chiamata Teti, che soleva accompagnare Artemide nelle sue cacce. Tea temeva che Chirone la punisse severamente se si fosse accorto che era incinta, ma non osò invocare l'aiuto di Artemide. Poseidone, tuttavia, volendo fare un favore al suo amico Eolo, trasformò temporaneamente Tea in una cavalla di nome Evippa. Quando essa si fu sgravata di una puledra, Melanippa, che più tardi divenne fanciulla, Poseidone pose l'immagine di Tea fra gli astri come costellazione della cavalla. Eolo affidò Melanippa, ora chiamata Arne, a un certo Desmonte che, essendo senza figli, fu ben lieto di adottarla. Chirone rimase all'oscuro di questa vicenda. Poseidone, che da tempo aveva messo gli occhi su Arne, la sedusse non appena essa divenne donna e Desmonte, accortosi che essa era incinta, la accecò, la rinchiuse in una tomba vuota e la nutrì con quel poco di pane e acqua che bastava appena a tenerla in vita. Arne partorì due gemelli e Desmonte ordinò ai suoi servi di esporli sul monte Perlio perché vi fossero divorati dalle belve. Ma un mandriano Icario li salvò. Uno dei due gemelli somigliava tanto al nonno che fu chiamato col suo nome Eolo, l'altro invece fu chiamato Beoto. Nel frattempo Metaponto, re di Icaria, aveva minacciato di ripudiare Teano, la moglie sterile, se non gli avesse generato un figlio nel volgere di un anno. Durante l'assenza di Metaponto, recatosi a interpellare un oracolo, Teano invocò l'aiuto del mandriano che le portò i gemelli trovati sul monte, e Teano li fece credere suoi. In seguito, poiché non era sterile come si credeva, Teano partorì davvero due gemelli, ma i due trovatelli, grazie alla loro origine divina, erano di gran lunga più belli e dunque i prediletti di Metaponto, che non aveva ragione di sospettare che essi non fossero figli suoi. Rosa dalla gelosia, Teano attese l'occasione opportuna e quando Metaponto si assentò nuovamente per sacrificare nel santuario di Artemide e Metapontina, ordinò ai propri figli di andare a caccia con i fratelli maggiori e di ucciderli simulando un incidente. Il malvagio disegno tuttavia fallì perché Poseidone venne in aiuto dei propri figli, i quali uscirono vittoriosi dalla lotta. Eolo e Beoto riportarono dunque al palazzo i cadaveri dei due gemelli di Teano, e la madre, alla loro vista, si uccise trafiggendosi il petto con un coltello da caccia. Eolo e Beoto si rifugiarono allora dal loro padre adottivo, il mandriano, e Poseidone stesso rivelò il segreto della loro nascita. Ordinò poi che essi accorressero in aiuto della madre, che ancora languiva nella tomba, e uccidessero Desmonte. I gemelli ubbidirono senza esitare. Poseidone ridonò la vista ad Arne e tutti e tre ritornarono a Icaria. Quando Metaponto seppe che Teano l'aveva ingannato, sposò Arne e adottò i figli di lei come i suoi eredi. Tutto andò bene per qualche tempo, finché Metaponto decise di ripudiare Arne e di sposarsi di nuovo. Eolo e Beoto insorsero in difesa della madre e uccisero Autolita, la nuova regina. Furono però costretti a rinunciare alla successione al trono e a fuggire. Beoto si rifugiò con Arne nel palazzo del nonno Eolo, che gli affidò la parte meridionale del suo regno e la chiamò Arne, mentre i suoi abitanti portano il nome di Beoti. Due città tessaliche, una delle quali più tardi fu chiamata Cheronea, adottarono anch'esse il nome di Arne. Eolo, frattanto, era salpato con un gruppo di amici e, direttosi a occidente, prese possesso delle 7 isole eolie del Mar Tirreno, dove divenne famoso come consigliere degli dei e custode dei venti. La sua casa sorgeva a Lipari, un'isola galleggiante dalle coste dirupate, e colà egli teneva prigionieri i venti. Ebbe 6 figli e 6 figlie dalla moglie Enarete e vivevano tutti assieme in buona armonia in un palazzo circondato da mura di bronzo dove si svolgevano ininterrottamente allegre feste ed echeggiavano lieti canti. Un giorno Eolo scoprì che il suo figliolo minore Macareo si era giaciuto con la sorella Canace. Inorridito, gettò in pasto ai cani il frutto del loro amore incestuoso e mandò a Canace una spada con cui essa si trafisse. Più tardi, tuttavia, Eolo venne a sapere che tutti i suoi altri figli e figlie, ignari che l'incesto tra mortali fosse un'offesa per gli dèi, si erano accoppiati innocentemente e ormai si consideravano marito e moglie. Per non irritare Zeus, che considerava l'incesto una prerogativa degli Olimpi, Eolo spezzò queste unioni e ordinò a 4 dei suoi figli superstiti di emigrare. Essi si recarono in Italia e in Sicilia, dove ciascuno di loro fondò un regno famoso e si rivelarono a emuli del padre per castità e saggezza. Soltanto il 5° figlio, il maggiore, rimase a Lipari come successore al trono. Taluni dicono che Macareo e Canace ebbero una figlia, Anfissa, che più tardi fu amata da Apollo. Zeus aveva imprigionato i venti nell'isola perché temeva che, se non fossero rimasti sotto controllo, potessero un giorno spazzar via la terra e il mare, ed Eolo, per volere di Era, si incaricò di custodirli. Era suo compito rimetterli in libertà a uno, secondo il suo giudizio, per desiderio di questo o quel nume. Se doveva scatenare una tempesta, Eolo apriva un varco nella scogliera dell'isola con la punta della sua lancia, e i venti si precipitavano disordinatamente all'aperto. Eolo era così abile e prudente che quando suonò l'ora della sua morte, Zeus non permise che scendesse al Tartaro, ma lo pose a sedere su un trono nella grotta dei venti, dove egli ancora si trova. Era sostiene che Eolo avrebbe il diritto di partecipare ai banchetti degli dèi, ma gli altri Olimpi, e specialmente Posidone, che si dice padrone del mare e dell'aria che lo sovrasta e nega a chiunque il diritto di scatenare tempeste, lo considerano un intruso. Gli Ioni e gli Eoli, cioè le prime due ondate di Elleni patriarcali che invasero la Grecia, furono indotti dai portatori della civiltà elladica, già stabilitisi nella penisola, a onorare la triplice dea e a mutare di conseguenza le loro consuetudini sociali, divenendo greci, graicoi, devoti della dea grigia o vegliarda. In seguito, gli Achei e i Dori riuscirono a introdurre i costumi patriarcali e la discendenza patrilineare e fecero di Acheo e di Doro i figli di un comune antenato, Elleno, cioè dell'epifania maschile della dea lunare Elle o Ellene. La cronaca paria dice che questo passaggio da Greci a Elleni si verificò nel 1521 a.C., una data accettabile. Eolo e Iono erano considerati elleni della seconda generazione e figli di Suto. Veniva così condannata la devozione degli Eoli e degli Ioni per Afrodite, l'orgiastica dea luna, cui era sacro l'uccello Xutos, cioè la rondine. Le sue sacerdotesse non tenevano in alcun conto la legge patriarcale che considerava le donne come proprietà dei loro padri e mariti. Ma Euripide, un leale ionico di Atene, fa di Iono il fratello maggiore di Doro e di Acheo, figlio di Apollo. I miti di Posidone che seduce Melanippa e Demetra dalla testa di cavalla e di Eolo che seduce Evippa si riferiscono forse al medesimo evento, e cioè al prevalere degli Eoli nei centri preellenici dove fioriva il culto del cavallo. Il mito di Arne accecata e imprigionata in una tomba, dove diede alla luce i gemelli Eolo e Beoto, poi esposti sulla montagna, è evidentemente tratto dalla solita rappresentazione che ispirò i miti di Danae, di Antiope e altri, e che mostrava la madre terra accovacciata su una tomba a Tolos nell'atto di presentare i gemelli dell'anno nuovo ai pastori, come rivelazione dei suoi misteri. Le tombe a Tolos hanno sempre l'ingresso rivolto a est, come promessa di risurrezione. Codesti pastori dovevano riferire di aver trovato i neonati sulle pendici di una montagna e allattati da qualche animale sacro, vacca, scrofa, capra, cagna o lupa. Le bestie feroci dalle quali i fanciulli avrebbero dovuto essere salvati rappresentano le metamorfosi stagionali del re sacro neonato. Salvo per il particolare dei venti imprigionati e dell'incesto collettivo a Lipari, il resto del mito riguarda emigrazioni di tribù. I mitografi hanno fatto una grande confusione tra Eolo, figlio di Elleno, un altro Eolo, che fu detto figlio di Suto affinché gli Eoli fossero considerati greci della terza generazione, e un terzo Eolo, nipote del primo. Poiché gli dei omerici non condannarono affatto l'incesto dei figli e delle figlie di Eolo, si può supporre che Eolo ed Enarete non fossero mortali soggetti al divieto di accoppiamento tra consanguinei matitani, e che i loro figli e figlie fossero le sei coppie superstiti di divinità incaricate di tutelare i sette corpi astrali e i sette giorni della settimana sacra. Ciò spiegherebbe i privilegi di cui godettero e la loro esistenza simile a quella degli dei, senza preoccupazione di sorta, serena e libera, su un'isola inaccessibile e galleggiante, come già fu Delo prima della nascita di Apollo. Macareo significa felice, e soltanto gli dei erano felici. Toccò ai mitografi latini di umanizzare Eolo e di fargli assumere un atteggiamento severo nei riguardi dei figli. Le modifiche apportate al mito permisero ai latini sia di spiegare le origini dei regni eolici in Italia e in Sicilia, sia, poiché Canace significa abbaiante, il figlio di Canace fu gettato in pasto ai cani, di giustificare l'usanza italiana di sacrificare dei cuccioli. Sembra che Ovidio abbia tratto questo mito dal secondo libro della storia etrusca di Sostrato. I venti erano in origine proprietà di Era e le divinità maschili non avevano potere su di loro. Infatti, secondo Diodoro, Eolo si limita a insegnare agli isolani l'uso delle vele e a predire, da certi segni che appaiono nel fuoco, quali venti si leveranno. Il controllo dei venti, considerati gli spiriti dei morti, è uno dei privilegi che le rappresentanti della dea della morte vollero difendere a tutti i costi. Nel XVI e nel XVII secolo le streghe inglesi, scozzesi e brettoni si vantavano ancora di far soffiare venti favorevoli o contrari. Ma i dori andarono per le spicce. Già ai tempi di Omero essi avevano promosso Eolo, antenato eponimo degli Eoli, al rango di divinità minore affidandogli, a spese di Era, la tutela degli altri venti. Le isole Eolie, che portano il suo nome, sono situate in una zona famosa per la mutevole violenza dei suoi venti. Questo compromesso fu evidentemente accettato di mala grazia dai sacerdoti di Zeus e di Posidone, che si opponevano al culto di nuove divinità, e indubbiamente venne avversato dai fedeli di Era, che consideravano i venti come inalienabile proprietà della dea.